Ecco la banda degli Zulu, dice la gente di sangue blu. Sono tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Sono seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fare. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole, chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana. Dice bimba è andata bene, ho già fatto 1006, due si baciano e uno canta, all I really want to do. Questa è la banda degli Zulu. Poi tramonta il sole, sono ancora là, e qualcuno al sacco a pelo non ce l'ha. Dice Susi beh, venite su da me, e in crociera il vecchio a casa a posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, ma guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno schifo, che non si lavano nemmeno il viso. Ma il governo se un bel giorno cambierà, sai che bella fine fanno quelli là. Poi si voltano e nel bar entrano a bere, un magnaccia, un ladro e un contrabbandiere. La la la la la la la. Adesso facciamo un attimo di jazz. Voi fate la la la la la. Cantate, io faccio jazz, improvviso. Facete un esempio di jazz etnico. 1, 2, 3. La la. Ti è piaciuto? Grazie. Non ci ho dormito stanotte?